Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Addio alle armi di Ernest Hemingway. Traduzione di Fernanda Pivano. Tremai tutta la notte. Alla fine le mani mi facevano così male che quasi non potevo tenerle sui remi. Varie volte fummo sul punto di venire sbattuti sulla riva. Mi tenevo vicino alla riva perché avevo paura di smarrirmi nel lago e perdere tempo. A volte eravamo così vicini che si poteva vedere una fila di alberi e la strada lungo la riva con le montagne dietro. Non pioveva più e il vento respinse le nuvole finché la luna apparì e guardando indietro vidi la lunga punta nera di Castagnola e il lago con frangenti bianchi e più in là la luna sulle alte montagne di neve. Poi le nuvole tornarono a coprire la luna e le montagne e il lago scomparvero, ma era molto più chiaro di prima e si poteva vedere la riva. La vedevo troppo chiaramente e mi allontanavo dove non avrebbero potuto vedere la barca se lungo la strada di Pallanza ci fosse stata qualche guardia doganiera. Quando la luna ricomparve, vedemmo le ville bianche sulla riva, sui pendii della montagna e la strada bianca che trapelava tra gli alberi. Continuai ininterrottamente a remare. Il lago si allargò e sulla riva opposta, ai piedi delle montagne, vedemmo qualche luce che doveva essere di Luino. Vidi uno spacco cuneiforme tra le montagne sull'altra sponda e pensai che doveva essere Luino. Se lo era, tenevamo una buona media. Rientrai i remi e mi abbandonai sul sedile. Ero molto, molto stanco di remare. Mi facevano male le braccia e le spalle e la schiena e avevo le mani rovinate. «Potrei tenere l'ombrello», disse Catherine. «Potrebbe farci da vela col vento. Sei capace di stare al timone?» «Credo di sì. Prendi questo remo e tienilo stretto sotto il braccio, aderente alla barca, e usalo da timone. E io terrò l'ombrello». Andai a poppa e le mostrai come doveva tenere il remo. Presi il grosso ombrello che mi aveva dato il portiere e sedetti guardando la prua e lo aprii. Si aprì con uno schiocco. Lo tenni dalle due parti, sedendo a cavalcioni col manico agganciato al sedile. Il vento lo riempì e sentii la barca risucchiata in avanti mentre tenevo più forte che potevo ai due bordi. La barca muoveva in fretta. «Andiamo in un modo magnifico», disse Catherine. Non riuscivo a vedere altro che le stecche dell'ombrello. L'ombrello si tendeva e spingeva e sentivo che trascinava anche noi. Puntai i piedi e tenni stretto, poi improvvisamente si rovesciò. Mi sentii battere una stecca sulla fronte. Cercai di afferrare la cima che si stava curvando col vento e tutta la baracca. Si rovesciò e fu capovolta e io fui a cavalcioni del manico di un ombrello capovolto e strappato, dopo aver retto una vela che spingeva piena di vento. Sganciai il manico dal sedile. Posai l'ombrello a prua e ritornai da Catherine a prendere il remo. Stava ridendo. Mi prese la mano e continuò a ridere. «Che cosa c'è?» Presi il remo. «Eri così buffo mentre tenevi quell'affare. Lo credo bene. Non arrabbiarti, caro. Era così buffo. Pareva che tu fossi largo 6 metri ed eri così affettuoso stringendo l'ombrello fra gli orli». Parve soffocare. «Ricomincerò a remare. Riposati un momento e bevi qualcosa. È una notte straordinaria, abbiamo fatto un enorme cammino. Devo tenere la barca fuori del cavo delle onde. Ora ti do da bere, poi riposati un momento, caro». Rientrai i remi e fecero un po' da vela. Catherine aprì la valigia, mi rese la bottiglia del cognac, tolsi il tappo col temperino e bevvi un lungo sorso. Era liscio e caldo e il calore mi attraversò e mi sentii caldo e allegro. «È un buon cognac», dissi. La luna era di nuovo coperta, ma vedevo la riva. Pareva che molto più avanti, nel lago, ci fosse un'altra punta. «È abbastanza caldo, Cat. Sto magnificamente. Sono solo un po' intorpidita. Vuota quell'acqua, così potrai stendere i piedi». Poi mi misi a remare e ascoltai gli scalini e il tuffarsi e grattare della latta sotto il sedile di Poppa. «Vuoi darmi la latta?» dissi. «Vorrei bere. È spaventosamente sporca. Non importa, ora la risciacquo». Udii Catherine risciacquarla oltre il bordo. Poi me la porse piena d'acqua. Avevo sete dopo il cognac e l'acqua era ghiacciata, così ghiacciata che mi fece male ai denti. Guardai la riva. Eravamo più vicini alla Punta Lunga. Nella baia di fronte c'erano delle luci. «Grazie», dissi, e restituii il secchiello. «Sarei sempre benvenuto», disse Catherine. «Ce n'è ancora se vuoi. Vuoi mangiare qualcosa?» «No, tra poco avrò fame. Conserviamo la roba». «Bene». Ciò che era sembrato una punta era un lungo promontorio alto. Mi spinsi al largo nel lago per oltrepassarlo. Ora il lago era molto più stretto. La luna era di nuovo scomparsa e la guardia di finanza avrebbe visto la nostra barca nera sull'acqua se fosse stata a guardare. «Come va, Kate?» «Bene. Dove siamo?» «Credo che non ci siano più di 8 miglia. È molto ancora, povero caro. Non sei morto?» «No, sto bene. Mi fanno solo male le mani». Continuammo a salire il lago. C'era uno spacco nella montagna sulla riva destra, uno spianarsi con una bassa linea costiera che pensai fosse Cannobio. Rimasi molto a largo perché era da questo momento in poi che correvamo il pericolo maggiore di incontrare la guardia. C'era una montagna alta a forma di cupola sull'altra sponda in avanti. Ero stanco. Non era una gran distanza da coprire a remi, ma così fuori allenamento era stata dura. Sapevo che dovevo oltrepassare quella montagna e risalire il lago di almeno 5 miglia prima di giungere in acque svizzere. La luna ormai era quasi calata, ma prima di calare il cielo si rannuvolò di nuovo e c'era molto buio. Rimasi molto a largo nel lago, remando un po', poi fermandomi e tenendo i remi in modo che il vento colpisse le pale. «Lasciami remare un po'», disse Catherine. «Credo che tu non debba. Sciocchezze. Mi farà bene. Non mi lascerà essere tanto intorpidita». «Credo che tu non possa, Kate. Sciocchezze. Rimane con calma, fa molto bene una signora incinta». «Bene, allora remo un po' con calma. Io andrò indietro, poi tu alzati. Tieni su tutte e due le falchette quando ti alzi». Sedetti a poppa col cappotto addosso e il bavero alzato e guardai Catherine remare. Remava molto bene, ma i remi erano troppo lunghi e le davano noia. Aprii la valigia, mangiai un paio di sandwich e bevi un sorso di cognac. Faceva andare tutto molto meglio. E ne bevi un altro sorso. «Dimmi quando sei stanca», dissi. Poi, un momento dopo, «bada che il remo non ti batta sul pancino». «Se lo facesse», disse Catherine, fra una vogata e l'altra, «la vita sarebbe molto più semplice». Bevi un altro sorso di cognac. «Come va?» «Bene». «Dimmi quando vuoi smettere». «Bene». Bevi un altro sorso di cognac. Poi mi afferrai alle due falchette della barca e mi avviai in avanti. «No, sto benissimo», ritorna Poppa. «Mi sono riposato in un modo straordinario». Per un momento col cognac remai con facilità e fermezza. Poi incominciai a mancare i colpi e presto mi limitai a battere l'acqua e a sentire un sottile sapore bruno di bile per aver remato con troppa violenza dopo il cognac. «Dammi un sorso d'acqua, ti dispiace?» dissi. «È molto facile», disse Catherine. Prima dell'alba incominciò a piovigginare. Il vento era calato, oppure eravamo protetti dalle montagne che cingevano la curva fatta dal lago. Quando mi accorsi che stava giungendo l'alba, mi calmai e remai forte. Non sapevo dove eravamo e volevo entrare nella parte svizzera del lago. Quando incominciò l'alba, eravamo vicinissimi alla riva. Vedevo la riva rocciosa e gli alberi. «Che cos'è?» disse Catherine. Mi appoggiai sui remi e ascoltai. Era un motoscafo che ronfava sul lago. Mi avvicinai a riva e mi fermai. Il ronfare si avvicinò. Poi vidi il motoscafo nella pioggia un po' dietro di noi. C'erano 4 guardie di finanza a poppa, coi cappelli da alpini calcati, i baveri delle mantelline rialzati e le carabine appese sulla schiena. Avevano tutti l'aria assonnata di mattina così presto. Vidi il giallo sui loro cappelli e le mostrine gialle sui baveri delle mantelle. Il motoscafo s'avvicinò e scomparve, ronfando nella pioggia. Ritornai al largo nel lago. Se eravamo così vicini al confine, non volevo essere salutato da una sentinella sulla strada. Rimasi al largo, da dove potevo appena vedere la riva, e remai 3/4 d'ora nella pioggia. Udimmo un altro motoscafo, ma rimasi fermo finché il rumore del motore morì attraverso il lago. «Credo che siamo in Svizzera, Kate», dissi. «Davvero? Non c'è modo di saperlo finché non vediamo le truppe svizzere. O la Marina Svizzera. La Marina Svizzera non è uno scherzo per noi. Quell'ultimo motoscafo che abbiamo visto probabilmente era la Marina Svizzera. Se siamo in Svizzera facciamo una gran colazione. Hanno panini straordinari e burro e prosciutto in Svizzera». Ormai era alba piena e cadeva una pioggia sottile. Il vento continuava a soffiare nella stessa direzione e si vedevano i frangenti delle onde allontanarsi da noi e risalire il lago. Ora era certo che eravamo in Svizzera. C'erano molte case tra gli alberi dietro la riva e un po' discosto dalla riva c'era un villaggio con le case di pietra, qualche villa sulla collina e una chiesa. Guardavo la strada che rasentava la riva per vedere se c'erano guardie, ma non ne vidi. La strada ora era vicinissima al lago e vidi un soldato uscire da un caffè sulla strada. Indossava un uniforme grigio-verde e un elmetto come i tedeschi. Aveva una faccia piena di salute e dei baffetti a spazzolino. Ci guardò. «Salutalo», disse a Catherine. Lei gli agitò la mano e il soldato sorrise imbarazzato e rispose agitando la mano. Rallentai. Eravamo di fronte alla riva del villaggio. «Dobbiamo essere molto dentro il confine», dissi. «Dobbiamo essere sicuri, caro. Bisogna che non ci riportino alla frontiera. La frontiera è molto lontana. Credo che questa sia la città di Dogana. Sono quasi sicuro che è Brissago. Non ci saranno italiani qui? Ce ne sono sempre di due nazionalità nelle città di Dogana, non in tempo di guerra. Non credo che lascino attraversare il confine agli italiani». Era un villaggio simpatico. C'erano molte barche da pesca lungo la banchina e reti stese sui rastrellieri. Cadeva una bella pioggia di novembre, ma c'era un'aria allegra e pulita anche con la pioggia. «Allora, vogliamo scendere a fare colazione?» «Bene». Spinsi forte sul remo sinistro e mi avvicinai. Poi mi raddrizzai quando fummo vicini alla banchina e portai la barca ben aderente al muro. Rientrai i remi, afferrai un anello di ferro, scesi sulla pietra bagnata. Ed ero in Svizzera. Ormeggiai la barca e tesi la mano a Catherine. «Vieni, Kate. È una sensazione straordinaria. E le valigie? Lasciali in barca». Catherine scese ed eravamo in Svizzera insieme. «Che bel paese», disse. «Non è straordinario. Andiamo a fare colazione. Non è un paese straordinario. Mi piace come me lo sento sotto le scarpe. Sono così intorpidita che non lo sento bene, ma mi pare un paese splendido. Caro, capisci che siamo qui fuori da quel posto maledetto?» «Sì, sul serio, non ho mai capito niente prima d'ora. Guarda quelle case. Non è una bella piazza. Ecco un posto dove possiamo fare colazione. Non è bella questa pioggia. Non c'è mai stata una pioggia simile in Italia. È una pioggia allegra. E siamo qui, caro. Capisci che siamo qui?» Entrammo nel caffè e sedemmo a un tavolo di legno tutto lindo. Avevamo gli occhi lucidi di eccitazione. Una splendida donna dall'aria linda con un grembiule venne a chiederci che cosa volevamo. «Panini e prosciutto e caffè», disse Catherine. «Mi dispiace, non abbiamo panini in tempo di guerra». «Pane, allora. Posso farvelo brustolire?» «Bene. Vorrei anche qualche uovo fritto». «Quante uova per il signore?» 3. «Prendine 4, caro». 4 uova. La donna se ne andò. Baciai Catherine e le tenni la mano molto stretta. Ci guardammo e guardammo il locale. «Caro, caro, non è bello?» «È straordinario», dissi. «Non importa che non ci siano panini», disse Catherine. «Ci ho pensato tutta la notte, ma non importa, non mi importa niente. Credo che presto ci arresteranno». «Non ci pensare, caro. Prima faremo colazione. Che cosa importa essere arrestati dopo colazione? E poi non possono farci niente. Siamo cittadini britannici e americani di buone condizioni». «Tu hai il passaporto, vero?» «Certo, ma non parliamo di questo. Siamo felici». «Non potrei essere più felice», dissi. Una gatta grigia e grossa, con la coda ritta come un pennacchio, attraversò il pavimento fino al nostro tavolo e mi fece il groppone contro la gamba e ron ron ron ogni volta che si strofinava. Mi chinai ad accarezzarla. Catherine mi sorrise piena di felicità. «Ecco il caffè», disse. Ci arrestarono dopo colazione. Facemmo un giretto nel villaggio, poi ritornammo sulla banchina a prendere le valigie. Un soldato faceva la guardia alla barca. «È vostra questa barca?» «Sì, Da dove venite? Dal lago. Allora devo chiedervi di venire con me. E le valigie? Potete prenderle. Presi le valigie e Catherine camminava vicino a me e un soldato ci seguiva avviandoci verso il vecchio ufficio doganale. Nell'ufficio doganale un tenente molto magro e militaresco ci interrogò. Di che nazionalità siete? Americano e britannica. Fatemi vedere i passaporti. Gli diedi il mio e Catherine prese il suo dalla borsa. Li esaminò a lungo. Perché siete entrati in Svizzera a quel modo in barca? Sono uno sportivo, dissi. Il remo è il mio grande sport. Remo sempre quando posso. Perché siete venuti qui? Per lo sport invernale. Siamo turisti e vogliamo fare lo sport invernale. Questo non è un luogo da sport invernale. Lo sappiamo. Vogliamo andare dove fanno lo sport invernale. Cosa facevate in Italia? Io studiavo architettura. Mia cugina studiava arte. Perché ve ne siete andati? Vogliamo fare lo sport invernale. Con la guerra in corso non si può studiare architettura. Per favore rimanete dove siete, disse il tenente. Ritornò nell'ufficio doganale con i nostri passaporti. Sì, splendido, caro, disse Catherine. Continua sulla stessa pista. Vuoi fare lo sport invernale? Sai qualcosa di arte? Rubens, disse Catherine. Grande e grosso, dissi. Tiziano, disse Catherine. Capelli color Tiziano. E mantegna? Non chiedermi quelli difficili, disse Catherine. Però lo conosco. Molto amaro. Molto amaro, dissi. Un mucchio di stigmate. Vedi che brava moglie sarò, disse Catherine. Potrò parlare d'arte coi tuoi clienti. Eccolo che viene, disse. Il tenentino scese lungo l'ufficio doganale con i nostri passaporti. Dovrò mandarvi a Locarno, disse. Potete prendere una carrozza e un soldato vi accompagnerà. Bene, dissi. E la barca? La barca è confiscata. Che cosa avete in quelle valigie? Frugò le due valigie e prese la bottiglia di cognac. Vuol bere con me? Chiesi. No. Grazie, si rizzò. Quanto denaro avete? 2.500 lire. Fu favorevolmente impressionato. Quanto ha vostra cugina? Catherine aveva 1.200 lire rotti. Il tenente era soddisfatto. Il suo atteggiamento verso di noi divenne meno altero. Se venite per gli sport d'inverno, disse, Wengen è il posto adatto. Mio padre ha un bellissimo albergo a Wengen. È aperto tutto l'anno. Splendido, dissi. Potrebbe darmi l'indirizzo? Glielo scrivo su un biglietto. Mi tese il biglietto con molto garbo. Il soldato vi accompagnerà a Locarno. Terrà lui i vostri passaporti. Mi dispiace, ma è necessario. Ho buone speranze che vi rilascino un visto o un permesso militare a Locarno. Stese i due passaporti al soldato e portando le valigie ci avviamo nel villaggio a ordinare una carrozza. «Hai!» gridò il tenente al soldato. Gli disse qualcosa in dialetto tedesco. Il soldato mise il fucile sulla schiena e prese le valigie. «È un gran paese», disse a Catherine. «È così pratico». «Grazie tante», disse al tenente. Agitò la mano. Seguimmo la guardia nel villaggio. Andammo a Locarno in una carrozza col soldato seduto a cassetta col vetturino. A Locarno non ci furono difficoltà. Ci interrogarono e furono gentili perché avevamo passaporti e denaro. Ho l'impressione che non abbiano creduto una parola della storia e pensavo che era stupido, ma pareva un tribunale. Non ci voleva qualcosa di ragionevole, ci voleva qualcosa di tecnico e poi aggrapparcisi senza spiegazioni. Ma avevamo passaporti e avremmo speso denaro. Così ci rilasciarono un visto provvisorio. Questo visto poteva venire ritirato in qualsiasi momento. Dovevamo presentarci alla polizia dovunque andassimo. Potevamo andare dove volevamo? Sì. Dove volevamo andare? Dove vuoi andare, Kate? Montreux. È un bellissimo posto, disse l'ufficiale. Credo che vi piacerà. Qui a Locarno è bellissimo, disse un altro ufficiale. Sono certo che vi piacerebbe molto qui a Locarno. Locarno è un posto molto simpatico. Vorremmo un posto dove poter fare lo sport invernale. Non ci sono sport invernali a Montreux. Chiedo scusa, disse l'altro ufficiale. Io sono di Montreux. Non c'è dubbio che ci sono sport invernali sulla linea ferroviaria Montreux-Oberland-Bernois. Non puoi negarlo. Non lo nego, ho detto semplicemente che non c'è sport invernale a Montreux. È questo che metto in dubbio, disse l'altro ufficiale. Metto in dubbio questa affermazione. Io insisto su questa affermazione. Metto in dubbio questa affermazione. Ho fatto la luge io stesso nelle strade di Montreux. Non una volta, ma molte volte. La luge è certamente uno sport invernale. L'altro ufficiale si voltò verso di me. «E questa è la vostra idea dello sport invernale, signore? Vi dico che stareste benissimo qui a Locarno. Trovereste un clima salubre e dintorni simpatici. Vi piacerebbe molto. Il signore ha espresso il desiderio di andare a Montreux». «Che cos'è la luge?» chiesi. «Lo vedi che non ha mai sentito parlare della luge?» Questo importò moltissimo al secondo ufficiale. Ne fu molto soddisfatto. «La luge», disse il primo ufficiale, «è un toboga». «Vi prego di distinguere», disse il primo ufficiale scotendo il capo. «Devo dissentire di nuovo. Il toboga è molto diverso dalla luge. Il toboga è costruito in Canada con panconcelli piatti. La luge è un comune slittino con i pattini. La precisione ha la sua importanza». «Non si può andare in toboga?» chiesi. «Certo che si può andare in toboga», disse il primo ufficiale. «Si può andare benissimo in toboga. A Montreux vendono degli ottimi toboga canadesi. Gli Ox Brothers vendono toboga. Importano i loro stessi toboga». Il secondo ufficiale si voltò da un'altra parte. «Il toboga», disse, «esige una pista speciale. Non si potrebbe fare del toboga nelle strade di Montreux». «Dove siete scesi, qui?» «Non lo so», dissi. «Siamo appena arrivati da Brissago. C'è fuori la carrozza». «Non sbagliate andando a Montreux», disse il primo ufficiale. «Troverete il clima delizioso e bello. Sarete a due passi dagli sport invernali». «Se volete veramente fare dello sport invernale», disse il secondo ufficiale, «dovete andare in Engadina o a Muran». «Devo protestare contro il consiglio che vi hanno dato di andare a Montreux per fare lo sport invernale. A Les Avants, sopra Montreux, c'è un ottimo sport invernale di ogni genere». Il campione di Montreux fulminò con lo sguardo il collega. «Signori», dissi, «temo che dobbiamo andare. Mia cugina è molto stanca. Faremo un tentativo a Montreux». «Mi congratulo con voi», disse il primo ufficiale stringendomi la mano. «Credo che rimpiangerete di aver lasciato Locarno», disse il secondo ufficiale. «Comunque andate a presentarvi alla polizia di Montreux». «Non avrete fastidi con la polizia», mi assicurò il primo ufficiale. «Troverete tutti gli abitanti estremamente cortesi e cordiali». «Grazie molte a tutti e due», dissi. «Terremo preziosi i vostri consigli». «Arrivederci», disse Catherine. «Grazie tante a tutti e due». Ci fecero un inchino sulla porta. Il campione di Locarno, un po' freddamente. Scendemmo i gradini e salimmo in carrozza. «Dio mio, caro», disse Catherine, «non si poteva venire via un po' prima?» Diedi al vetturino il nome di un albergo consigliato da uno degli ufficiali. Il vetturino prese le redini. «Hai dimenticato l'esercito?» disse Catherine. Il soldato era in piedi accanto alla carrozza. Gli diedi un biglietto da 10 lire. «Non ho ancora denaro svizzero», dissi. Mi ringraziò, salutò e se ne andò. La carrozza si mosse avviandosi verso l'albergo. «Come mai hai scelto Montreux?» chiesi a Catherine. «Vuoi davvero andarci?» «Il primo posto che mi è venuto in mente», disse. «Non è brutto. Possiamo trovare un posto su, in montagna». «Hai sonno?» «Sto già dormendo. Ora facciamo una bella dormita. Povera Cat, hai passato una brutta nottata». «Mi sono divertita», disse Catherine, «specialmente quando facevi la vela con l'ombrello». «Riesci a renderti conto che siamo in Svizzera?» «No. Ho paura di svegliarmi e accorgermi che non è vero». «Anch'io». «È vero? No, caro. Non sto andando alla stazione di Milano per vederti partire». «Spero di no. Non dirlo. Mi spaventa. Forse è proprio lì che stiamo andando. Sono così intontito che non lo so», dissi. «Fammi vedere le mani». Gliele tesi. Erano tutte e due sanguinanti. «Non ho un buco nel fianco», dissi. «Non essere sacrilego». Mi sentivo stanchissimo e svanito. L'esaltazione era tutta scomparsa. La carrozza procedeva lungo la strada. «Povere mani», disse Catherine. «Non toccarle», dissi. «Per Dio, non so dove siamo». «Dove stiamo andando, vetturino?» Il vetturino fermò il cavallo. «All'hotel Metropole. Non è lì che vuole andare?» «Sì», dissi. «Va tutto bene, Cat. Va tutto bene, caro. Non agitarti. Faremo una bella dormita e domani non ti sentirai più intontito». «Sono proprio intontito», dissi. «È come un'opera comica ai tempi nostri. Forse ho fame». «Sei soltanto stanco, caro. Poi starei bene». La carrozza si fermò davanti all'albergo. Qualcuno uscì a prendere le valigie. «Sto benissimo», dissi. Eravamo sul marciapiede e stavamo entrando in albergo. «Lo so che stai benissimo. Sei soltanto stanco. Sei stato in piedi tanto tempo. Ma ogni modo, siamo qui». «Sì, siamo proprio qui». Seguimmo nell'albergo il ragazzo con le valigie.